Bibbia Martini, primo libro dei Re sei figura, e fabbrica del Tempio riguardo alle parti sue principali, tanto interne, come esterne. Ora alla fabbrica della casa del Signore fu dato principio l'anno 480 dopo l'uscita dei figliuoli d'Israele dalla terra d'Egitto, l'anno quarto del regno di Salomone sopra Israele, nel mese Zio, viene a dire, nel secondo mese. E la casa, che il re Salomone edificava al Signore, avea 60 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza, e 30 di altezza. E dinanzi al tempio erari un atrio lungo 20 cubiti, quanto era largo il tempio, e avea 10 cubiti di larghezza in faccia al tempio. E fece nel tempio delle finestre oblique. E fabbricò degli appartamenti sul muro del tempio all'intorno, sulle mura della casa attorno al tempio, e al santuario fece quasi ale all'intorno. Il piano infimo era largo 5 cubiti, e il piano di mezzo era largo 6 cubiti, e il terzo era largo 7 cubiti, e posò le travi intorno al tempio al di fuori, talmente che non fossero incastrate nelle mura del tempio. E nel fabbricarsi la casa, ella fu fatta di pietre lavorate, e intere, e non si sentì rumor di martello, né di scarpello, né d'altro strumento di ferro, mentre si edificava la casa. La porta del piano di mezzo era dai lato destro della casa, e per una scala a chiocciola si saliva al palco di mezzo, e da quel di mezzo al terzo. E fabbricò la casa, e la messe a coperto, e la coperse con soffitta di cedro. E fece gli appartamenti attorno a tutta la casa di 5 cubiti di altezza, e coperse la casa con legname di cedro. E il Signore parlò a Salomone, e disse, «In questa casa, cui tu edifichi, io confermerò in tuo favore le parole dette da me a Davide tuo padre». E io abiterò in mezzo a figliuoli d'Israele, e non abbandonerò il mio popolo d'Israele. Salomone adunque fece la casa, e la compì, e intonacò al di dentro con tavole di cedro le mura della casa, dal pavimento fino alla sommità delle mura, e sino alla soffitta, cui egli coprì al di dentro di legno di cedro, e il pavimento della casata coperse con tavole di abete. E fece di legno di cedro un tavolato di 20 cubiti per la parte posteriore del tempio, dal pavimento sino alla soffitta, e ne fece il luogo interior dell'oracolo, il santo dei santi. E il tempio dalla porta dell'oracolo in giù avea 40 cubiti. E tutta la casa al di dentro era vestita di cedro, e le incastrature del legname erano fatte con molta arte, e ornate di lavori rilevati di tornio. Ogni cosa era talmente coperta delle tavole di cedro, che non compariva neppure una delle pietre della muraglia. Or egli avea fatto l'oracolo nel fondo della casa, nella parte più interna del tempio, per collocarvi l'arca del testamento del Signore. L'oracolo avea 20 cubiti di lunghezza, e 20 cubiti di larghezza, e 20 di altezza, ed ei lo coprì, e lo rivestì d'oro purissimo, e lo stesso altare rivestì di cedro. E anche la casa, che è dinanzi all'oracolo, la ricoperse d'oro finissimo, e vu inchiodò le lame con chiodi d'oro. E non eravi parte alcuna del tempio, che non fosse ricoperta d'oro anche tutto l'altare dell'oracolo lo coperse d'oro. E per l'oracolo fece due cherubini di legno d'ulivo, alti 10 cubiti. L'una delle ali del cherubino avea 5 cubiti, e l'altra pure 5 cubiti, viene a dire, che vi erano 10 cubiti, dalla punta un'ala fino alla punta dell'altra. Parimente il secondo cherubino era di 10 cubiti, e della stessa dimensione, ed erano ambedue dello stesso lavoro. Viene a dire, che l'uno dei cherubini avea di altezza 10 cubiti, e similmente il secondo cherubino. E collocò i cherubini nel mezzo del tempio interiore. E i cherubini avevano le ali distese, e l'una delle ali toccava la parete, e un'ala dell'altro cherubino toccava l'altra parete, e le altre ali si toccavano l'una l'altra nel punto di mezzo del tempio. E ricoperse d'oro anche i cherubini. E tutte le pareti del tempio le fece ornare all'intorno di scultura, e d'intaglio, e vi fece dei cherubini, e delle palme, e delle figure diverse, che quasi si staccavano, e sporgevano in fuora dalla parete. E nella interior parte, e nella esteriore del tempio ricoperse d'oro il pavimento. E all'ingresso dell'oracolo fece piccole porte di legno d'ulivo, e l'uscio era un pentagono. E queste due porte erano di legno d'ulivo, e in esse erano scolpite figure di cherubini, e di palme, e di bassi rilievi, che sporgevano molto in fuora, e le rivestì d'oro. E d'oro ancora ricoperse tanto i cherubini, cerne le palme, e tutte le altre cose. E all'ingresso del tempio fece le porte di legno d'ulivo quadrate. E le due porte di legno di abete una da un lato, l'altra dall'altro lato, e l'una, e l'altra imposta erano di due parti, e si apriva, tenendosi unita l'una parte con l'altra. E vi fece scolpire dei cherubini, e delle palme, ed ornamenti, che sporgevano molto in fuora, e ogni cosa ricoperse con lame d'oro, con esattamente giusto lavoro. E fabbricò l'atrio interiore di tre ordini di pietre lavorate e un ordine di legname di cedro. Furon gettati i fondamenti della casa del Signore l'anno quarto nel mese Zio, e l'anno undecimo nel mese di Bui fu terminata la casa in tutte le sue parti, e riguardo a tutti i suoi utensili, e la fabbricò in 7 anni. Note, 6,1, nel mese Zio, ovvero Sio. Da Salomone in poi si vedono i nomi di alcuni mesi presso gli ebrei, mentre per avanti gli stessi mesi erano indicati secondo l'ordine, che i tenevano tra di loro, mese primo, mese secondo, terzo. Eci. Nel secondo mese. Dell'anno sacro. 6,2. La casa. Avea 60 cubiti e la casa è qui il santo dei santi, e il santo, che erano come l'abitazione di Dio. I 60 cubiti di lunghezza erano da levante a ponente, e i 20 cubiti di larghezza da mezzodì a settentrione. 6,4. Delle finestre oblique. Queste finestre non erano nel santo dei santi, ma solo nel santo. Il santo dei santi era senza luce, tolta quella, che potesse ricevere dalla sua porta. Per finestre oblique intendesi comunemente, che el fossero più auguste fuori del tempio, e più larghe ai di dentro. Così il Caldeo, l'Arabo e Teodoreto. S. Girolamo interpreta finestre chiuse con gelosie di legno secondo l'uso orientale. 6,5-6. E fabbricò degli appartamenti e ci descrivonsi i tre piani di celle fabbricati da tre lati del tempio, da occidente, da mezzodì e da settentrione. Salomone adunque attorno alle mura del tempio da quelle tre parti edificò tre piani di celle tra il muro del tempio, e l'altro muro eretto in distanza di 5 cubiti dal detto muro del tempio. Il piano intimo aveva 5 cubiti di larghezza, il secondo 6, il terzo 7 cubiti, perché Salomone dall'altezza di 5 cubiti in su aveva tenuta più stretta d'un cubito la muraglia del tempio, e similmente dell'altezza di 10 cubiti in poi aveva ristretta ancora di un cubito la stessa muraglia, onde ciascuno dei due piani guadagnava 1 cubito di larghezza. Le travi, che sostenevano i piani, non erano incastrato nei muro del tempio, ma solamente posavano sulla stesso muro, dove ristringendosi lasciava libero poste alle stesse travi. Così in occasione di dover mettere, o cambiare le travi, non si doveva toccare per nulla il muro del tempio. Quanto al numero delle celle, Giuseppe ne mette 30 per ogni piano. 6,7. Non si sentì rumor di martello, e le pietre erano portate intere, e tagliate nelle loro cave. Onde non vi bisognò di toccarle, né altro si fece, che metterle in uso una dopo l'altra. Quanto al legname, i chiodi poterono essere a vite. Con questo faceasi intendere al popolo, che da tutte le altre fabbriche era molto differente quella che si innalzava per essere abitazione della maestà di Dio. Non sono degne di essere mescolate con la verità delle sacre scritture le strane visioni dei rabbini, uno dei quali ha scritto un intero libro sopra un vermiciuolo, da cui pretende che fossero tagliate e pulite con gran maestria tutte le pietre del tempio. 6,8. La porta del piano di mezzo, e dalla parte destra della casa del Signore, vale a dire a settentrione, era una porta, la quale per mezzo di una scala a chiocciola conduceva al secondo piano delle celle. Questa medesima scala serviva per salire fino alla sommità del tempio, ed era cavata nella muraglia stessa del tempio. Alcuni però non senza qualche fondamento pretendono che due fossero queste scale, l'una per salire a piani del tempio, l'altra per salire a quei delle celle. 6,10. E fece gli appartamenti e i piani delle celle, i quali avevano 5 cubiti di altezza per ciascheduno. E coperse la casa con legname di cedro. Il tetto del tempio era di legno di cedro. Questo tetto era piano a guisa di terrazzo, come si usava in tutte le fabbriche del paese. 6,16. E fece di legno di cedro un tavolato di 20 cubiti e ci fece con asse di cedro la divisione del santo dei santi dal santo, ossia della parte anteriore del tempio dalla posteriore. E ravi nel mezzo una porta, V17. 31. Questi 20 cubiti sono la larghezza del tempio da un lato all'altro. 6,17. Dalla porta dell'oracolo in giù avea 40 cubiti. Tutta la lunghezza del santo, ossia della parte anteriore del tempio, era di 40 cubiti, dall'atrio sino alla porta del santo dei santi, e il santo dei santi avea 20 cubiti di lunghezza, e altrettanti di larghezza, e di altezza V20. 6,20. E lo stesso altare rivestì di cedro. Questo altare doveva essere fatto per posarvi l'arca. Alcuni vogliono che si intenda l'altare dell'incenso, ma questo non era nel santo dei santi, e di esso si parla, V. 22, 6,22. L'altare dell'oracolo, e ci vale a dire l'altare dell'incenso, che era nel santo dinanzi all'oracolo, ossia dinanzi al santo dei santi. 6,23. E poi l'oracolo fece due cherubini e questi due cherubini con l'ampiezza delle loro ali distese occupavano tutta la larghezza del santo dei santi, e la metà dell'altezza, e servivano di ombrello all'arca e a piccoli cherubini fattivi da Mosè. 6,31. E l'uscio era un pentagono. Si descrive qui la porta, per la quale dal santo si entrava nel santo dei santi, forse ella è della piccola, perché era minore di quella, per cui dall'atrio si entrava nel santo. Secondo la nostra Vulgata, la testata di questa porta faceva la figura di un delta A, così tutta la porta era di figura pentagona, ossia di 5 angoli. 6,33-34. All'ingresso del tempio e ci all'ingresso della prima parte, della parte anteriore detta il santo. Questa porta era quadra, e l'armatura di essa era non di pietra, né di mattone, ma di legno di olivo. Le due imposte erano di abete, e ognuna delle due parti costava di due pezzi, l'uno dei quali si ripiegava sopra l'altro mediante le sue bandelle, o altro simile meccanismo. Così la porta da destra e da sinistra era doppia, e si apriva ripiegando una parte sopra l'altra. 6,35. Con esattamente giusto lavoro. La Vulgata EI qui è oscura assai, il senso dell'ebreo egli è questo. Le lame di oro erano poste sopra dei descritti intagli, e ornati con tale arte, che non toglievano la vista dei lavori, che erano sotto le stesse lame di oro. L'indoratura arricchiva l'intaglio, ma non lo nascondeva. 6,36. Fabbricò l'atrio interiore di tre ordini di pietre e ci quest'atrio è l'atrio dei sacerdoti, ed è detto interiore relativamente a quello del popolo, che veniva dopo, ed era più remoto dal tempio. Alcuni pretendono che quest'atrio dei sacerdoti avesse attorno un piccolo muro, come quello, che era formato da tre soli ordini di pietre, e sopra queste un tavolato di cedro. I laici perciò, che non potevano entrare in quest'atrio, potevano dall'atrio del popolo vedere i sacrifici, che ivi si facevano. Altri vogliono, che solamente si accenni in questo luogo la maniera di fabbricare tenuta in Oriente, e che si osserva in altri luoghi della scrittura, la qual maniera consisteva nel tramezzare le pietre col legname. E questa maniera fu tenuta nel fabbricare le mura di quest'atrio, di qualunque altezza el fossero. Egli era allo scoperto. 6,38. In 7 anni. I rotti sono sovente omessi nei libri santi. La fabbrica durò 7 anni e 6 mesi, come apparisce dal testo.